Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, convocati, tutti convocati, sempre con voi anche d'estate. Siamo qui e anche Giovanni Capuano. Eccomi. Me lo tengo, lo rubo alle ferie, ma poi ti lascio andare, Gio. Ma tanto poi torniamo, tra pochissimo torniamo e poi abbiamo un'annata lunghissima che ci porta fino al mondiale di Russia. C'è Giorgio De Luca che non ha divieto di vacanze, pensa. Gli hanno messo il veto, non gli danno neanche un giorno. Così come Gianmarco Ferronato, Niente vacanze per voi, ci andate l'anno prossimo, forse, vediamo. Intanto, come sapete, in questi giorni ritorniamo sugli argomenti che ci hanno più importanti, che ci hanno accompagnato nel corso di questa stagione, i momenti più significativi, grandi ospiti. E ci stiamo, devo dirti la verità, divertendo molto. La Juventus padrona, sesto scudetto consecutivo, e questi chi li ferma più, nonostante un mercato che sembra difficile, da leggere, ma vedrai che in asta di partenza, almeno così la penso io, saranno ancora i grandi favoriti. Sì, e nonostante anche quello che è successo a Cardiff, che poi ha un po' gettato una luce diversa sulla stagione della Juventus, almeno per quello che era rimasto l'obiettivo principale, io credo che quando rileggeremo questo sesto scudetto consecutivo della Juventus, tra un po' di tempo ci accorgeremo forse che è stato il più difficile. Forse non come il primo, quello di Conte, che ha rotto un tabù che durava il post Calciopoli e tutto, ma io mi sono fatto l'idea, quello era da underdog, ecco, mi sono fatto l'idea che la distanza da Roma e Napoli, che in fondo è stata esigua perché la Juventus ha dovuto aspettare la fine per vincere questo scudetto, in realtà sia stata una distanza reale, cioè questa Juventus era più forte di Roma e Napoli, ma non così più forte come ce l'eravamo immaginata. Ha fatto 91 punti e questi sono. Io ho sempre avuto la sensazione invece che fosse in controllo, cioè che comunque li teneva a debita distanza. Quando dovevo piazzare lo scatto lo piazzava. Però non ho mai visto una Juventus realmente in difficoltà nel mantenere la guida del campionato. Poi, anche se sul finale di stagione qualche difficoltà fisica si è vista e poi l'abbiamo rivista tutta a Cardiff e quindi evidentemente non era semplicemente una fase di discesa, di planata e di controllo. E mi immagino e penso alle ultime settimane, alle ultime giornate, i tempi lasciati interi alla Roma, al Torino, la sofferenza con il Napoli, la sofferenza a Bergamo con l'Atalanta. Quindi io credo che questo sia stato lo scudetto forse più complicato dei tre di Allegri, cioè quello più combattuto, quello più difficile, forse anche il più bello. Sì, forse. Non so se è replicabile immediatamente, ma questo lo scopriremo da fine agosto in poi. Lo scopriremo vivendo, anche perché la concorrenza mi sembra molto molto interessante. Allora torniamo al ricordo del momento del sesto scudetto juventino, e abbiamo interpellato un tifoso juventino doc come Massimo Giletti, che quando si parla di calcio, peli sulla lingua, non ne ha proprio. Risentiamolo. Dentro Higuaín, bel pallone, arriva la chiusura, poi Gonzalo, Higuaín, 2-1, ma non esulta. Burdisso che prova a colpire, deviazione, la palla sulla traversa e poi dentro, e c'è la riba di Da Simeone, prima ha toccato Rigoni, poi una deviazione, poi Simeone, un pomeriggio di ordinaria follia Marassi per la Juventus. Rischia ancora De Rossi un intervento che però Higuaín salta, Higuaín ancora in area di rigore, sinistro! Pipita Higuaín, golasso di Higuaín, tentativo di sponda da parte di Maggio, che poi ribala

perché quello che ti ha regalato è troppo. Sono d'accordo. È troppo. Dovevi crederci fino in fondo. Io penso però che Ranieri avrebbe fatto qualcosa di estremamente saggio venendo via. Cioè, quando arrivi dove non puoi più arrivare, forse è il caso di fare il grande gesto di andarsene, altrimenti poi è successo che lo hanno pugnalato alle spalle i figli suoi. Sì, come un giorno Cesare. Spiegheremo anche che è sfida pure restare in un posto dove hai fatto qualcosa di straordinario e provare a darti delle nuove motivazioni. È la sfida più dura, ma forse proprio per questo è quella da cui scappano tutti. Una ragione ci sarà. Però sono coraggiosi quelli che restano. Sì, coraggiosi, forse un po' incoscienti. Io continuo a pensare che quando arrivi sulla cima della montagna e più in alto di così non puoi andare, è il caso di piantare la tua bandiera e scendere e dedicarti ad altro. Comunque, allora, Ranieri tornato come Giulio Cesare, pure romano, non detestaccio, pugnalato alle spalle dai figli suoi, perché non è un segreto che sia stato fatto fuori dai giocatori. E risentiamo le impressioni che il professor Paolo Condò ha raccolto nel corso di una sua lunga intervista con Claudio Ranieri, poi ne ha parlato con noi. Preferita da Vardy, che cerca la battuta, mamma mia, gol strepitoso di Jamie Vardy, è il 17° gol dell'anno. Attenzione a Vardy che va in campo aperto, esce Mannone, Vardy, il Leicester è in vantaggio, Jamie Vardy, Filmour, un gol pesantissimo quando siamo al 22° del secondo tempo. Capisco che tutti quanti i giornalisti, no, vorrebbero che noi vincessimo il campionato, ma insomma non è che anche se avessimo vinto qua, sì, con tanti punti di vantaggio, ma i ragazzi è la prima volta che stanno lassù in alto, per cui bisogna anche vedere come reagiscono. Attenzione, palla rubata da Mares, Mares può rientrare sul sinistro, Mares! L'ha sbloccata lui al 10° minuto di gioco, prima palla gol, non ha tremato il piede sinistro, più importante di questo Leicester, quello di Mares. Schlupp dentro l'area, Schlupp alza la testa, cerca l'assist, ancora Schlupp che poi prolunga, poi Ushua la spinge in porta, Ushua contropiede classico dell'Leicester, il marchio di fabbrica di questa squadra che ruba il pallone e poi va a fare gol. Il sogno è quello di fare delle partite come queste, lottare fino in fondo, poi alcune volte ti viene bene, tre volte ci è venuto male, la terza sconfitta in tantissime partite, per cui va bene. Drinkwater, morbido sul secondo palo, la tocca Morgan, il tocco di Morgan, il pareggio dell'Leicester, il gol del capitano, al secondo gol in questo campionato, di un'importanza incalcolabile. Amazing. Dream and reality. Grande copertina della premiata ditta. Top De Luca, top. Ferronato, c'è Edoardo Lavezzani anche in redazione. Come avete sentito oggi, parterre de roi qui in studio. Sì, ma avete messo a capo tavola, non so niente, c'è internet qua. Però va bene. Pierluigi Pardo, c'è Giovanni. Infatti Capuano. Non ha internet, delira. Ha detto che in fondo l'esonero ci sta. No, perché non ha internet. Non ho detto che ne sono, ci sta. C'è ho anche Paolo Condò numeri... collegato. Buongiorno a tutti, che bella compagnia. Buongiorno. Come va? Benissimo, benissimo. Fatto anche il sorteggio di Europa League, quindi siamo al top, come dice un vostro. Non benissimo, siamo al top. Che adesso mi chiamiamo anche Parenzo. Da dove partiamo? Da Ranieri. Partiamo da Ranieri. Che dici, Paolo? È una vergogna, come hanno scritto alcuni?